Sono pronto. Sono convocato. Sono stato convocato. Siamo state convocate anche noi. Mister, siamo convocati. Sono convocato. Mister, ci sono. Andiamo. Tutti convocati. Di Carlo Genta. Cazzo, sono lì, Mugabe! Ora ha abbandonato ogni prudenza, Mugabe tocca col destro! Non ho mai visto un incontro di questa violenza negli ultimi 20 anni, non tanto adesso di Mugabe! Il sinistro la figura! Cazzo, sinistro di Mugabe! Il sinistro di Hagler! Incredibile, una delle più belle riprese a cui mi sia dato mai di assistere. Destro di Ali, poi ancora il gancio destro, Ali destro sinistro e destro e Foreman crolla. Ali ha fatto spendere a Foreman probabilmente le ultime energie, ha capito che il momento era favorevole, è scattato il suo destro, sono seguiti altri colpi in sequenza, Foreman è crollato, non ce l'ha fatta a rialzarsi, è KO all'ottava ripresa. Gancio sinistro, poi il destro di Tyson, destro al corpo, montante destro a vuoto, gancio sinistro a segno e crolla Trevor Berbick al tappeto. Vedremo il punteggio di arbitri, va a vuoto, un sventolo d'olivo, un gancio sinistro, non colpisce il bersaglio e finisce il match in questo istante. Dimostrano segni di impazienza i pugili, anche Falcinelli sta scuotendo la corda del ring. È un verdetto difficile, come dicevamo. Attenzione, è il momento. Ha vinto Oliva, medaglia d'oro! Medaglia d'oro, Patrizio Oliva, ancora una volta! Buongiorno a tutti, prima di un trittico di puntate registrate, ovviamente dichiariamo in questo inizio anno, Giorgio De Luca, squadra che non si tocca, ovviamente che vince, Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia. Allora, occasione per raccontarvi un po' di storie e per insomma darvi degli spunti per la lettura nel periodo delle feste. Cominciamo con una voce che conoscete bene, quella è un autore molto prolifico ormai, quella di Dario Ricci. Ciao Dario. Ciao Carlo. Ciao, e cominciamo dal pugilato per raccontare questo A Bordo Ring, l'ultimo libro che hai scritto, di uno sport che è uno dei più letterari in assoluto, ha proposto spunti al cinema, ha proposto spunti alla musica, alla letteratura, all'arte che è nobile. L'hai scritto con un maestro, Mario Bambini, buongiorno. Buongiorno, buongiorno maestro, ciao. Leggevo appunto, ha iniziato con i racconti di tuo papà che ti narrava di Rocky Marciano. In che modo? Me li narrava la sera, dato che non, in televisione non è che ci fosse chissà che, e i suoi racconti mi affascinavano. Appunto, questi racconti di mio padre. Qual è la cosa che ti è rimasta più impressa di questi racconti? Qual è il tuo racconto preferito prima di dormire? Beh, era poi attraverso le gestualità, no? Quindi quando mio padre si metteva in pose, mi faceva notare certi colpi che scagliava Marciano, e quindi avevo questa figura di fronte che assomigliava anche un po' a mio padre, oltretutto, e quindi vedevo questo mito fatto in carne e ossa, no? Perché sì, era imitato da mio padre, e queste gesta che erano appunto quelle di questo grande campione che a oltreoceano aveva vinto tutto. Certo, il modo di colpire. Cosa avete raccontato, Dario? Guarda, ci è piaciuto raccontare non tanto la storia di un campione, anche se poi in A Bordo Ring di campioni ce ne sono, a partire da Marciano, Argueglio, no? Che è un po' il mito di Mario. Sì. Ma la storia Boom Boom Mancini, perché sai, Mario Bambini è soprannominato Boom Boom Bambini, e per ovvia assonanza, ma anche perché quando mi raccontavo, quando ha iniziato la carriera, assomigliava a quel Boom Boom Mancini, Mancini, che anche in modo drammatico ha cambiato la storia della box. Ecco, ci sono questi campioni, c'è tanto pugilato femminile, che è il pugilato di adesso. Mario, sempre scettico sul pugilato femminile, si ritrova oggi ad avere in una pugilessa la sua migliore atleta, ma c'è soprattutto la storia di tutti i giorni, la storia di un maestro di periferia della palestra, in questo caso Sport Prevenzione e Salute di Milano, che tra parentesi anch'io sono suo allievo, insomma, se Marciano è il sogno, io sono il suo incubo, perché sono tutt'altro che un pugile modello. Ma volevamo raccontare la storia sua, di un maestro che fa box tutti i giorni, e dei suoi allievi che entrano con le loro storie e vengono attratti sia dalla figura del tecnico e sia soprattutto da quel quadrato magico che è un po' il luogo della sfida con noi stessi, insomma. Ray Bumbo Mancini, mi ricordo che guardavo i suoi incontri come voi e parava i colpi con la faccia. Sì, più o meno. Essendo un fighter, era abbastanza propenso alle grandi lotte. Eh sì, ripercorriamo quel match che cambiò il pugilato, no? Quel match in cui, col sudcoreano Kim, che poi morì, no? In seguito, sì, proprio, sì, alla violenza di quei colpi. Ebbene, è un match che sancì un prima e dopo nella storia della box. Il libro racconta la storia del primo, perché è organizzato sui 15 round, no? 15 capitoli, com'era la box prima di quel match, dopo quella tragedia. Infatti i round divennero 12 per gli incontri mondiali, venne aumentato il numero delle corde da 12 a 16, proprio per aumentare la sicurezza. Ecco, chiaramente ben vengano queste norme che hanno cambiato il pugilato, però per alcuni aspetti il pugilato moderno, no, Mario, ha perso un po' alcuni elementi tradizionali, classici. Beh, che tu cerchi di restituire anche a noi tuoi allievi. Certo, i valori sono sempre gli stessi. I valori che si portano sul ring sono i valori che portiamo tutti i giorni nella vita, quindi lealtà, rispetto, sono tutti quei valori che attraverso il nostro sport cerchiamo sempre di insegnare, e quindi ci affidiamo a queste regole, perché poi sono le regole che di tutti i giorni, appunto, e lo facciamo attraverso il nostro sport. Come sta il pugilato oggi, Mario? Pugilato italiano? E il pugilato mondiale anche? Il pugilato mondiale sta andando, perché non morirà mai. Il nostro sport non morirà mai. C'è una ripresa del pugilato italiano, e questo dovuto anche all'entrata del pugilato femminile, che ha dato degli ottimi risultati in questi anni. E quindi questo un po' forse sta facendo cambiare un po' opinione da parte della gente, che vede che anche le donne possono avvicinarsi a questo sport. E intanto è vero che, insomma, il mio miglior pugile è una ragazza. Sì, c'è proprio questo 14° round, inizia così: la box femminile non mi è mai piaciuta, il mio miglior pugile è una donna. Questo è il paradosso. Come si chiama? Lisa, no? Lisa. Sì, sì. Lisa dagli occhi blu. Sì, esattamente, dal senza pugno pesante. Stessa cosa lì, okay. No, devo dire che anche un esempio di quello che è il pugilato oggi, perché è una ragazza che, perdonami, spendiamo qualche secondo per dire, una ragazza che ha 20 anni, studia, lavora, vive da sola e si allena, e a gennaio proprio c'è un bel torneo in Svezia che l'attende con Mario, insomma, direi, no? Quando si dice che una c'ha le palle, ecco, sì. Diciamo, ragazzi, c'ha i ganci. Che storie raccontate poi in a bordo ring di pugili che conosciamo tutti? Perché, per esempio, non so, quello che ha sempre colpito di recente la mia fantasia è stato Tyson. Ovviamente abbiamo sentito un estratto prima di un suo match contro Berbick. Io direi che il problema, ma dello sport un po' in generale, non sta tanto nell'assenza di atleti quanto nell'assenza di personaggi. Lui era certamente un personaggio, poi leggi la sua biografia e ti colpisce per la violenza della biografia, non tanto dei suoi pugni. Oggi non abbiamo, credo, personaggi di questo tipo. Ma diciamo che il pugilato internazionale gli sta un po' costruendo, no? Mi viene in mente non tanto Joshua, che pure è un personaggio particolare, adesso, ma soprattutto Fury, no? I grandi pugili adesso che arrivano dall'est, dall'Ucraina, Lomachenko, Usyk, ci sono tanti bei pugili, e c'è una grande ondata dall'est, quindi ce ne siamo accorti anche alle Olimpiadi. Sono, vabbè, Mayweather che attualmente ormai si è ritirato, però si parla di Canelo ancora, insomma, di pugilato ce n'è. noi stiamo riprendendoci, quindi speriamo. Adesso abbiamo il nostro Fabio Turchi che è approdato in America e cercherà Pianello, che è iniziato la carriera da professionista. Speriamo che anche il nostro pugilato possa, insomma, avere quella risonanza che merita di avere. Noi, per ragioni anagrafiche, siamo partiti da Muhammad Ali e siamo andati di qua e di là. Qual è la storia a cui sei più legato, che racconti da bordo ring? Guarda, devo dirti che quella che mi emoziona di più non è la storia tanto di un campione o di un atleta, ma di un luogo, della Palestra Doria, che diventa un po' l'archetipo della fucina non solo di campioni e di talenti, ma anche di quel rapporto straordinario tra maestro e allievo che si crea intorno al ring, no? Per cui c'è il maestro Manfrini, che è stato poi l'ispiratore, e la musa che ha seguito Mario nella sua breve carriera pugilistica, il grande Ottavio Tazzi, no? Che ha formato fior di campioni su tutti, Giacobbe e Fragomeni, ma poi le storie di tanti personaggi minori, di tante persone comuni che attraverso quel ring e attraverso quei maestri non hanno trovato solo la loro strada per vincere il loro match, ma hanno trovato la loro strada nella vita. Certo. E quindi questa è la cosa che mi ha emozionato di più. Senti, l'ultima cosa, Mario, è davvero la palestra del pugilato, è davvero, spieghiamo agli ascoltatori, come quelle che vediamo nei film, cioè è fatta così? No, mi piacerebbe a volte che sia così, no? Poi si cerca di renderla un po' migliore, insomma. Però quelle topaie, no? Le classiche topaie, che io adoro, perché la Doria dei miei tempi era una topaia, ma era la sentivi dall'odore, esatto, quando entravi. Quella era la cosa che io adoravo, perché era proprio, era come entrare nella tana delle tigri, insomma. Però non siete voi maestri che grattate apposta, no, i muri, no, però insomma non deve neanche specchiare di nuovo, insomma. La palestra di pugilato deve essere un po' vissuta, con i suoi sacchi usati, al ring con le corde usurate, insomma, da un segno di vissuto, di storia, no? Quindi ha un suo perché. Ha un suo fascino. Quindi quelle che vediamo nei film magari sono un po' più 2.0, però più o meno sono così, decisamente. Grazie ragazzi, grazie davvero. Grazie, quindi leggete A Bordo Ring, leggete queste storie e torna a trovarci, Mario Bambini. Grazie a voi. Dario, noi ci vediamo tutti i giorni. Tutti i giorni, un grazie anche a Infinite Edizioni che ci ha dato fiducia, e un saluto agli amici di Ripa Teatina, la patria di Rocky Marciano, e alla signora Brunella, splendida trattoria che ci ha accolto con una boscaiola, funghi, porcini, tartufi e salsicce. Non riesco a pensare altro, ragazzi. Dieta pugilistica. E buon pugilato a tutti. Regolare, grazie davvero. Adesso passiamo dai pugni ai calci più famosi del mondo. Dalla bandierina alla Juventus, palla che passa, incredibile, palla per rete! Cristiano Ronaldo! La prima volta in Italia di CR7! Allontanata male dal Milan, allora Cancelo attacca ancora, prende il tempo all'Axalt, forte teso in mezzo, Ronaldo! 2-0 per la Juve, Cristiano Ronaldo, probabilmente chiude Milan la Juve, primo gol su azione a San Siro, un gol che vale 3 punti. Parte Cristiano Ronaldo, potentissimo, all'incrocio, 3-0, decimo gol nel campionato italiano. Una cosa che sicuramente ha portato Ronaldo un alto grado di competitività sia negli allenamenti in partita, ma soprattutto negli allenamenti, e questo fa sì che tutti hanno elevato il livello di attenzione. Dunque, io ho in mano esattamente in questo momento un libro che si intitola Cristiano Ronaldo, missione Juventus, e ho davanti a me chi l'ha scritto, cioè il collega Francesco Paolo Giordano. Ciao Carlo, ciao a tutti. Ciao. E la prima banale domanda che mi viene in mente è: ma c'è qualcosa che ancora non sappiamo di Cristiano Ronaldo? Secondo me molto poco, ma infatti questo libro non è nato dalla volontà di descrivere Cristiano Ronaldo, di fare la storia di Cristiano Ronaldo, perché quella l'hanno fatta in molti, l'hanno scritta in molti e tutti sappiamo molto di lui. Però questo libro nasce un po' dalla necessità di capire qual è stato l'impatto di Ronaldo sulla Juventus, e questa necessità mi è sorta nel momento in cui stiamo parlando di un giocatore che non è chiaramente un giocatore qualunque, non è un trasferimento qualunque, e chiaramente tutto quanto andava interpretato per capire esattamente che cosa vuol dire adesso la Juventus, per la Juventus, questo acquisto e il, come dire, l'ingresso, se vogliamo, in una nuova dimensione. In due parole cosa vuol dire? In due parole vuol dire che Ronaldo ha già cambiato, secondo me, la Juventus in qualche modo. L'ha cambiata, se vogliamo, anche dal punto di vista sportivo, perché la Juventus in quest'anno rispetto ad altre stagioni sta giocando in un modo diverso, con un approccio più offensivo, con più uomini. L'ha cambiata, la sta cambiando e la cambierà sicuramente. Il futuro è il verbo, è il modo, insomma, più esatto nel futuro dal punto di vista commerciale, perché comunque il boom social è un po' la cartina di tornasole di questo grande impatto che ha avuto Ronaldo, ma chiaramente quella, l'operazione Ronaldo ha grande, avrà un grande successo negli anni a venire, certo. Nel momento in cui comunque la Juventus andrà a recuperare quel gap che in questo momento ha ancora con le migliori del mondo. Quello che abbiamo un po' detto tutti, sì. Insomma, può sembrare un investimento pazzesco in termini economici, ma sono soldi che poi ti tornano indietro per varie vie, dai social all'impatto mediatico. Banalmente diciamo le magliette, ma poi in realtà non sono assolutamente le magliette, però le magliette sono la visibilità. Esatto. E quello esatto. Comunque è quasi un modo di dire. Non è un ritorno economico, però fa parte sempre di questa operazione. E poi la terza cosa, secondo me, è anche un po' il livello mentale di questa squadra, che soprattutto in Europa, dove è sempre arrivata, come abbiamo visto negli ultimi anni, a giocarsi partite importanti, anche due finali negli ultimi 4 anni, però è mancata un po' quella consapevolezza, secondo me, alla Juventus in certe partite. Forse quella contro proprio il Real Madrid di Cristiano Ronaldo dell'anno scorso ad aprile è stata un po' la partita che ha fatto capire come la Juventus, certo, avesse ancora da recuperare. Ma quel gap. Chi ha fatto sport lo sa benissimo, quando hai un giocatore così, un leader così, un capo così, una guida così da seguire, tu vai in campo e dici: ok, male che vada, palla a quello lì. Esatto. E questo è un po' successo cambia... già. Sì, un po' è successo già, certamente, in una squadra in cui i giocatori di carisma certo non mancano, però tu sai che comunque segui quella stella cometa che porta il numero 7. Anche se devo dire che io ho una viscerale passione per gli irregolari, e Cristiano Ronaldo non è esattamente quello che accende la mia fantasia più perversa. Magari può essere Ibrahimovic, magari sì. Può essere... Per te sì? No, Ronaldo? Sì, nel senso, capisco quello che vuoi dire. Capisco che tu vuoi dire che non è un irregolare, anzi io direi che Ronaldo è un giocatore abbastanza monolitico. È una persona abbastanza regolare con se stessa e con gli altri, nel senso che uno... che lo sappiamo è ossessionato dal suo autoperfezionamento, è ossessionato dal volersi migliorare sempre, e questo lo dice a tutti i venti. Quando vince, il giorno dopo si scatta la foto in palestra e saluta così il suo pubblico social. È ovvio che anche nella narrazione di Ronaldo troviamo pochissime strade alternative, le strade sono sempre quelle. È chiaro che non avremo mai qualcosa a livello Cantona, per fare un esempio dell'irregolare più irregolare. Perché sai, io non posso parlare di Cristiano Ronaldo senza chiamare in Spagna mio amico Filippo Maria Ricci, perché lui è un irregolare vero e quindi è la mia guida, è il mio capo giocatore. Ciao Filippo. Buon pomeriggio, buongiorno, ciao. Noi amiamo solo gli irregolari, i diavoli che giocano a pallone o che fanno sport, giusto? Sì, assolutamente. Ci piacciono solo quelli lì. Com'è stato? Sì. Senti, ma il tuo Ronaldo, raccontami il Ronaldo di Filippo Maria Ricci. Allora, io Ronaldo l'ho anche conosciuto, l'ho intervistato 3-4 volte ed a me piace molto. Io sono, a parte questa, diciamo, siamo partiti dagli irregolari, però nei regolari Ronaldo è una persona che nella distanza corta ti conquista. È una persona simpatica. Mi sembra Spalletti, cosa vuol dire nella distanza corta? No, cioè, quando lo conosci davvero, quando lo conosci da vicino, sì. In questo senso, insomma, no? Nel contatto è, è una persona brillante, e per cui questo depone il suo fuoco. Tante interviste diciamo sono, possono essere un po' scialbe oppure c'è poco da dire, con lui sei sempre sicuro che qualcosa viene fuori. È, un, è uno che parla in maniera aperta, dice quello che pensa, per cui già questo per me è una, nel calcio di oggi è già qualcosa di irregolare. Sì, abbastanza, è abbastanza irregolare, ma poi insomma c'è tutta un'iconografia classica per cui, sai, ti ricordi nei giorni in cui parlavamo dell'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juve? Ok, lo presentano, camminerà sul Po, guarirà qualche infermità, cioè, sai, questo aspetto per cui parla Ronaldo, attenzione, zitti tutti. No, d'accordo, d'accordo, però scrive la lettera ai bambini. Esatto, però questo fa parte della sua, come si può dire, della sua grandezza, per quello che ha costruito in tutti questi anni, no? Però tu mi hai chiesto, diciamo, il mio Ronaldo è stato, diciamo, appunto qualche, diciamo, contatto personale, insomma, limitato a quella che è la, la professione, però insomma interessante. E poi un racconto lungo 9 anni, per certi versi molto simile, abbastanza monocorde, cioè un gol dopo l'altro, un po' come lui, un po' una macchina, no? Ha fatto questi 450 gol in 9 anni, tra l'altro cifra tonda, bellissimo, da fare 50 stagione, no? Però quando ha avuto dei problemi, e ne ha avuti, per esempio col pubblico del Bernabeu, con Florentino Perez, ha fatto solo 2 rinnovi, e la cosa, diciamo, che poi è stato l'elemento scatenante del suo addio, no, questo terzo rinnovo che non arrivava, e lì ha sempre, quando ha, diciamo, doveva lamentarsi o doveva dire delle cose, e lo ha sempre fatto ed è sempre stato molto interessante. Quindi era un raccordo, un racconto, come si può dire, abbastanza schematico, sì, che però ogni anno una, due, tre volte l'anno, diciamo, usciva dal, dalle righe. Esatto, usciva dalle righe, dal canovaccio. Questo è stato. E poi l'ultima cosa che posso dire è il signore della Champions, insomma, no? È stato Piccici negli ultimi 6 anni, e questo ne ha vinte 4 qua a Madrid in 5 anni, e quindi questo è stato il suo grande grande obiettivo. E quindi dal punto di vista sportivo questi sono i 3 elementi che ti, certo, posso, no? Ma poi mi piacciono invece comunque i giocatori, al di là dell'essere o meno regolare, quelli che riescono a mentalizzarsi su un obiettivo come fa Ronaldo e a raggiungere quell'obiettivo. In questo mi ricorda molto Michael Jordan. Il tuo Ronaldo invece, Francesco Paolo Giordano, qual è? Sì, guarda, il mio Ronaldo probabilmente è quello che ho visto dal vivo allo stadio, ed è un Ronaldo che è stato, che è molto divertente da vedere quando non ha il pallone. È una cosa abbastanza singolare, devo dire la verità, ma che cerco anche un po' di scrivere nel libro. È chiaro che noi, quando guardiamo le highlights di Ronaldo, siamo rapiti da quello che fa, perché è un giocatore fantastico e perché quello che fa è chiaramente meritevole di considerazione. Però quando non è il pallone, secondo me viene fuori l'anima di Ronaldo, che è quella di un, quasi di un bambino, quasi infantile, uno che vuole sempre avere il pallone per sé, come voleva averlo quando era piccolissimo, e quindi lo chiama con questa grandissima con grandi gesti, con grandi voce, con tanta voce. Sai, quindi è molto interessante anche vedere il balletto di Ronaldo, che è un balletto totalmente personale, non è un balletto condiviso con la squadra, sì, perché sì, quella squadra magari neanche lo vede. Quindi è capitato, mi ricordo, in una partita contro il Bologna, che lui ha chiesto palla a Bentancur, l'azione poi si è sviluppata da tutt'altra parte, lui dall'altra parte del campo continuava, insomma, a prendersela con non so chi, e quindi è abbastanza divertente come tutti come i grandi cosa. Campioni vogliono quella roba lì, che esatto, è sferica, che sia calcio, che sia basket, che sia pallavolo, datela a me che poi ci penso io. Adesso ho un ultimo grande sogno: Filippo Maria Ricci, Messi in Italia, l'ha chiamato Ronaldo, dai ragazzo mio, non puoi, sento la tua mancanza, non puoi non venire qui, non ma alla Juventus, perché sennò che te lo dico a fare, ma metti fai conto, immagina, sogna, pensa, tanto sono giorni delle feste, Messi all'Inter un giorno sarebbe fantastico, fantastico, un'idea geniale, ed è vero che i due hanno bisogno uno dell'altro, perché per 10 anni si sono inseguiti, e questo è meraviglioso, e guarda caso appena la coppia si è sciolta hanno perso il pallone d'oro. Se fossero stati ancora insieme forse l'avrebbe vinto uno dei due. No, è meraviglioso, è un sogno, la vedo complicato, soprattutto perché Messi guadagna 50 milioni di euro netti all'anno, e quindi questo ovviamente complica parecchio le cose. Sì. E detto questo, sarebbe per la Serie A spettacolare, ovviamente per l'Inter, anche se dovesse arrivare so, anche tra un anno, due, insomma, con un Messi ancora più anziano, non importa. Sarebbe bellissimo, sarebbe divertente, penso che loro due... Alla fine questa è stata una rivalità spettacolare. Beh, intanto la rivalità che ci ha segnato anche, anche professionalmente, perché quante volte chiaro, ne abbiamo parlato. Ma è chiaro, no? Vabbè, ma anche, sai... Anche se voi siete in Italia, io sono qua per scrivere un giornale italiano. Ma poi portiamo in Italia, riportiamo in Italia anche te. Insieme, beh, insieme io, a me. Io, va bene. No, di che parliamo? Sarebbe meraviglioso, è stato il non so quanto ci vorrà a ricreare un altro duello di questa portata, così lungo, così ad alto livello, perché sai, a volte ci sono stati altri, no, altri duelli che magari duravano una, due, tre stagioni, questo è durato 10 stagioni, cioè meraviglioso. Sai, mi ricorda sempre Magic Johnson e Larry Bird, no? Una roba del genere, ed è di queste cose che alla fine vive lo sport, viviamo noi, vivono i nostri racconti. Ciao Phil. Grazie. Ciao, alla prossima. A prestissimo. Ciao. Io ringrazio anche Francesco Paolo Giordano, grazie, autore Carlo. Di Cristiano Ronaldo, missione Juventus. Leggetelo, noi ci fermiamo qui adesso per la borsa, ma poi torniamo perché voglio raccontarvi delle altre storie insieme al mio amico Carletto Pernat, storie di campioni di motociclismo. Qui non è un libro già scritto, ma un libro che sta per essere scritto, che in questi giorni viene scritto e che leggeremo tra un po'. Poi... così vi faccio un riepilogo di quello che sentirete oggi nei prossimi due giorni. Beh, Leo Turrini e Marino Bartoletti, Bar Tour, che riproporremo subito dopo l'intervallo. La lotta continua. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Convocati. Consapevole, colpevole e reo confesso di aver rivelato un segreto editoriale, cioè il libro di prossima uscita del mio amico Carletto Perna. Ciao Carlo. Ciao ragazzi. Ciao. Ormai ragazzi. L'ho detto a tutti. Bene, bravo. E tutti staranno ad aspettarlo. Non ti chiedo altro se non in questi giorni di raccontarmi qualche storia. Allora, Carlo Perna è la storia del motociclismo. È stato quello che ha attraversato come manager il mondo del motociclismo negli ultimi 30 quanti anni? Sono 40, ho cominciato nel 79 con la Gilera nel motocross, pensa a te. Ecco, sì. Ed è il colpevole di aver portato comunque sul palcoscenico del moto mondiale, tra gli altri, un signore che si chiamava, un ragazzino che si chiamava Valentino Rossi e poi è diventato il dottore. Me la racconti questa storia? Beh sì, è una storia, guarda, te la devo un po' condensare in non tanti minuti, perché puoi immaginarti. Sì. Tanto il libro, sai che forse lo chiamerò Belink e Paddock, ti piacerebbe il titolo? Ma meraviglioso, no? Meraviglioso, Belink e Paddock, sì, guarda, non cambiarlo, stupenda. Ti prego. Non lo cambierò mai. Guarda, di fare ricordo bene, io, Valentino deve molto a Graziano, papà, diciamoci le cose come sono, perché... papà me lo consigliò nel 95 quando Vale faceva lo Sport Production con la Cagiva 125, correva con il team di Lusuardi di Parma. E ti dico la verità, ogni giorno mi telefonava, era veramente una cosa, io sai, preso anche un po' da, non è che lo conoscessi bene Valentino, onestamente lo conoscevano pochi in quel periodo lì che faceva l'Europeo. Andai a vederla a Misano. Ti dico la verità che io mi sono detto, o è un campione o un pazzo, cioè via di mezzo non ce n'è, perché faceva delle traiettorie e dei passaggi che gli poteva fare uno che era veramente fuori di testa, oppure era un campione. E ti dico la verità che mi ricordò molto un tal Kevin Schwantz, e ti dico perché. Perché quando io ero in Cagiva nell'88, io ero direttore sportivo con Mamola e Roche, sì, nel team della Cagiva, nell'87 un tal, dico tal perché tutti lo conoscono, Roberto Gallina, sì, che è un grandissimo team alla Spezia, no? Ci fece provare la Cagiva un tale Kevin Schwantz, sì, credimi, a Misano nell'87, questo pochi lo sanno. Ti dico la verità, lo vedevi, guidava la moto come una bicicletta, sì, Kevin Schwantz. Passaggi di qua, passaggi di là, traiettorie allucinanti. Ecco, Valentino mi ricordava Kevin Schwantz, cioè stessa identica cosa, alto uguale, moto come una bicicletta, non una moto, lunghi, traversi, roba da pazzi. Dico, vabbè, guarda, mai convinto, Graziano. Questo, come dici tu, è un tartufo, non è un porcino. Sì, sì, e io ho detto, questo è un tartufo di Alba, hai capito? È un tartufo di Alba. È bianco, bianco. Sì, sì. Ok, sai, in quel momento dico la verità. Non è che loro fossero molto ricchi, insomma, qualche problemino economico l'avevano, sì, come famiglia. Non dico che me ne approfittai, perché direi una cosa sbagliata, però gli feci un contratto di 3 anni a busta chiusa, praticamente 96, 97, 98, con le cifre già, già precise, erano, sì, 30 milioni primo anno, 90 secondo e 180 al terzo, era tutto prefissato. Sì. E in più gli ho lasciato uno sponsor sulla carena al buon Graziano, che ne aveva bisogno, era un suo sponsor personale. Il problema fu quando andai da Beggio, alla era Priglia. Patron della Priglia, e dissi: guarda, Ivano, che io ho preso sto ragazzo, 3 anni di mattuta e mona, come si dice in Veneto, ma cioè, discussione di un'ora. Poi a un certo momento, visto che insomma qualcosa avevamo già vinto, mi dice: vabbè Carlo, dai, fai un po' come vuoi, prendilo e va bene così. E tutto cominciò la storia in questo modo. E fu una cosa meravigliosa, è che io non avevo team, non avevo. Per cui ho chiamato Giampiero Sacchi, che era un mio amico, e gli disse: Giampiero, guarda, io c'ho sto ragazzo qua, lo devo dare a qualcuno perché la squadra non ce l'ho. Allora gli offrì, gli diedi Valentino gratis, nel senso che il sottocontratto era, sì, mio, quindi la Priglia, sì, non lo pagava, le moto gratis e più 200 milioni e con addirittura libere le carene per lui. Quindi lui fece un affare, ma io feci un affare lo stesso, perché poi è chiaro che Valentino era di proprietà della Priglia. Certo. E ti dico la verità, che io mi darei delle martellate sulla testa per quello che successe nel 97, quando lui vinse il mondiale famoso, il suo primo, certo, mondiale, con tutte quelle gag, ti ricordi? Come no? Se lo ricorda tutto il mondo, compagnia bella, tutto il mondo. Poi ti racconterò anche la gag della bambola, che nessuno la conosce. Sì. Allora, venne in ufficio da me a fine del mondiale insieme a Graziano e mi disse: allora, il prossimo anno 2 e mezzo io voglio lasciare Sacchi e Noccioli, non so perché, si era mezzo litigata, affari loro, non mi interessava. E mi disse: però io voglio Brazzi come responsabile tecnico. Rossano Brazzi, non, sì, quello del cinema. Sì, certo. Stesso nome, ma diciamo un'altra, due mestieri diversi. Sì, esatto. Cosa che io avevo già dato a Capirossi, perché in quel momento avevo preso Capirossi nel 2 e mezzo. Mi ritrovai veramente in un problema grosso, ma lo risolsi dando a Capirossi i Noccioli e Brazzi a Valentino. Alla, sì, fine del discorso mi disse: Carlo, visto che avevo fatto 3 team diversi, uno con Arada, uno con Capirossi e uno con Valentino nel 98, fui un po' il primo a fare 3 team differenti, non fare 2 in una squadra. Ma guarda che strano. Guarda che strano. E mi disse alla fine: Carlo, perché non mi viene a fare te da team manager e da manager? E io gli dissi di no, perché ero responsabile sportivo della Priglia, come facevo a lasciare la Priglia? Però se avessi avuto una bellissima intuizione, avrei lasciato la Priglia, avrei fatto da suo team manager e manager. Forse oggi sarebbe tutto un po' diverso, per me più che per lui. Perché sliding doors, mio caro. Per me per altri motivi, no? E quindi, sai, questa è stata un po' una di quelle cose che ti dico, tornassi indietro, onestamente cambierai. Perché ti cambierà una vita, Carletto. Cavolo, fai un po' il manager di Valentino Rossi. Vedi tu. Senti, raccontami quella della bambola. Quella della bambola è incredibile, perché, ma è scritta anche sul libro evidentemente, certo, ma diamo un'anteprima qua, dai, intanto dai. Vale la pena. Allora, se vi ricordate, quegli anni lì uscì una volta una foto di Max Biaggi con Naomi Campbell, sì, non so se la ricordi. Sì, me la ricordo. Ed era secondo me un'operazione pubblicitaria. Non per Biaggi, me la ricordo, per quell'altra. Bravissimo, con un carrello e non c'era nessuno. Vabbè, insomma, comunque andò un po' su tutte le pagine dei giornali, no? Per cui, e Valentino, pare che fossimo a Barcellona, 20 giorni prima di Barcellona mi disse: Carlo, fammi sto piacere, visto, c'era già una bella battaglia fra di loro, sì, di comunicazione, visto che lui c'è stato, mica facciamo venire la Claudia Schiffer. E io dissi: Valentino, Claudia Schiffer, cavolo, vabbè, lui sia Beggio, Beggio mi diceva, prova un po', telefonai e trovai il numero dell'agente della Claudio Schiffer e gli chiesi per venire una domenica a Mugello che cosa avesse bisogno, tra virgolette, sì. La risposta nel 97-98, quegli anni lì, fu 30 milioni, più l'aereo privato, più truccatrice, fra quello di Sabeggio mi dicono tu sei scemo, tu sei genovese ma io sono veneto che forse ancora peggio, mi dicono. E a quel punto cosa facciamo? Beh, ci siamo messi d'accordo, abbiamo detto ma vediamo un po', abbiamo comprato una bambola gonfiabile che è costata 20.000 lire, combinazione, vinse quel gran premio. Sì. Allora lui fece il giro d'onore con questa bambola gonfiabile con scritto sulla schiena Claudio Schiffer e girò questa fotografia in tutte le prime pagine Dei tu. Giornali del mondo. Vedi tu, cioè, con 20.000 è un'icona, lire, non con Carletto, è un'icona. Tu ti ricordi, amici miei, una delle mie battute preferite: cos'è il genio? Fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità d'esecuzione. Carlo Perna. Esatto, però anche un po' di F che comincia con C alla fine, perché poi ci vuole anche quello. Carletto, ti abbraccio. Al prossimo giro, la prossima storia con Carlo Perna. Così anticipiamo qualche finestra sul libro che tra un po' leggerete. Ciao Carletto, grazie. E ciao a tutti. Ciao, adesso ci fermiamo per il traffico e poi una delle molteplici puntate che vi riproporremo di Bartoletti Turrini. Una puntata davvero eccitante, piena di sorprese, piena di colpi di scena, e non è tutto. C'è ancora un'ultima grande sorpresa. Tutti convocati. Una puntata davvero eccitante, piena di sorprese, piena di colpi di scena, e non è tutto. C'è ancora un'ultima grande sorpresa. Tutti convocati. Tutti convocati. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. Qui rivediamo quello che è successo. No, no, no, no. Ma no, no, ma cosa ha fatto? No, no, no, no. No, no, no. Ocon, cosa ha fatto? Non mi posso pensare che sia la Mercedes che abbia detto Ocon di dargli fastidio. What a idiot. What a idiot. Incredibile. Beh, far così ti viene da pensare male, sì. Una delle scenette cult della domenica e della settimana, Verstappen, l'incidente con Ocon e conseguenti Fagan Idiot con i conseguenti beep, e poi il Far West nello spogliatoio dell'autodromo del Brasile. Tutto molto divertente. Leo Turrini, Marino Bartoletti, buongiorno a tutti e due. Buongiorno vecchie puttane. Io volevo salutare subito Marino Bartoletti e anche Carlo Genta dicendovi sciacalli e prostitute. Perché voi ci sono anch'io, ci sono anch'io che sono infimo. No, voi vi credete di essere giornalisti, siete solo sciacalli, prostitute, infami e altri. Se avete il coraggio a Radio 24, la radio della Confindustria, mettete in onda in onore mio e di Marino Bartoletti che siamo sciacalli e prostitute, bocca di rosa di Fabrizio De Andrè. Questo è facile, Turrini, sei quasi banale. Vedere. Mandatelo in onda se avete il coraggio, invece di dire quasi banale. Faccela sentire. Ma secondo te non te la faccio sentire? Voglio sentirla, perché noi giornalisti siamo il male assoluto. Non può più dare buoni consigli, se non può più dare cattive. Vabbè, quello è il signor Giuseppe, caro Marino. Ma vediamo un po'. Alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso quindi? Conduce a... Hai visto? Il coraggio ce l'abbiamo altro che, caro Turrini. Ma sapete quanti anni ha questa canzone, ragazzi? No, voglio dire una cosa. Anche tu e Pardo, c'eravamo, no, io e Turrini, però... perché già comunque partecipavamo alla stesura dell'amanuense di André quando la scrisse. Marino Bartoletti, tu che sei uno sciacallo da sempre, io vorrei dirvi però che a Sant'Ilario, citato da De André nella canzone, a suo tempo avevo una donna quando ero molto giovane, e qui mi viene il dubbio che forse fosse una giornalista, non voglio dire una prostituta, ma una giornalista. Però chiedetemi perché sono fermo sulla Pero Cormano. Ma come sulla Pero Cormano? Perché sei fermo, dai. Speravo a Sant'Ilario una volta tanto nella vita, no? Ora sono fermo sulla Pero Cormano perché qui ci sono tutti i tifosi dell'Inter che si chiedono: ma come mai andiamo a giocare a Bergamo con l'Atalanta, avendo pareggiato col Barcellona, veniamo travolti e Mister Spalletti non pensa di mettere in campo Lautaro Martinez e Joao Mario? E allora io vorrei che a questo punto la regia, sempre molto preparata, ci facesse sentire l'inno di Lautaro Martinez e Joao Mario con l'Inter a Bergamo, che è Noi No di Claudio Baglioni. Ok, intanto ti regalo una risposta. Ti regalo una risposta. I conduttori sono la cosa più inutile. Totalmente inutile. Guardo, sei uno sciacallo. No, ma ditemi piuttosto se ha ragione Turrini o no, o è un dettaglio Joao Mario, Lautaro Martinez. No, Lautaro a Bergamo non me lo metti, ma dai Marino, di qualcosa. No, il famoso senno del poi, no? Anche se immagino, conoscendo la tua onestà intellettuale di vecchio sciacallo, giornalaio, quindi vendo le prostitute, che tu l'avevi detto anche prima, vero? Sì, no, fra l'altro posso espolvere noi giornalisti. Voglio dire, Pardo ci ha elevato un po', posso dirlo, perché Pardo è finalista al Campiello, al Premio Strega, ha scritto questi romanzi formidabili, ma anche Pardo rimane uno sciacallo. Sciacallo. Io l'ho visto giro a Napoli, lo sciacallo Pardo che diceva da Zon: sospendete la partita perché sta piovendo troppo. Ha fatto 2-1 al Napoli. E cosa ha fatto quello sciacallo di Pardo? Ha detto: bellissimo spettacolo, sembra una partita di pallanuoto. Pardo, vergognati. Ma cosa dici? No, scusa, invece, vedi che la vicenda Joao Mario sancisce per l'ennesima volta un tema sul quale si è dibattuto qualche settimana fa, cioè il calcio è liquido, perché Joao Mario... Ma adesso si è arrivati giustamente a rimpiangere Joao Mario. Ecco Spalletti che dice che è solido. Che fino a un mese fa, Spalletti ha detto che il calcio è tuo solido. Nemico, no, neanche per scherzo. Però lui ha detto che il calcio è solido. Il calcio invece è liquido. È liquido perché se si arriva a rimpiangere Joao Mario, che un mese fa era un giocatore praticamente dimenticato dai qualsiasi pensiero nell'azzurro, ma dimenticato da uno sciacallo prostituta come te. Io invece me lo ricordo benissimo, perché sono un comune cittadino e quindi avrei voluto Joao Mario in campo. Però noto che qui noi no. Protesto insieme, certo, a Marino che, Bartoletti. Certo che, certo che la... No, eccola qua. No, io non mai arrivati. No, come sarà? La strada è andata. Male. Certo Marino, che il livello di prostituzione intellettuale di Turrini è scandaloso. Guarda, io mi chiedo se c'è un conduttore a Berlino in questa trasmissione. No, perché sennò a questo punto io pretendo che mettiate ci vediamo Joao Mario prima o poi. Ci vediamo a Joao. Oh, grande no, ma, Marino. Aspetta. Questa è la mia mezz'ora di riposo settimanale, no? Io mi metto qui e me la godo. Poi posso oggi c'è anche Pierluigi. Non fate parlare. No, non ti facciamo parlare, hai parlato fino adesso. Una roba a nome anche di Marino Bartoletti, che è uno sciacallo. Beh, a nome vediamo. Questa mezz'ora dovreste cambiare la sigla, basta, fare tutti i convocati, fate Bar Tour, che sta per Bartoletti Turri. Bello Bar Tour. Il bar di Bartoletti Turri. Ladro, oltre che Turrini, sei veramente una puttana. Tu sei uno sciacallo, ti faccio salutare dal naso. Eccoci qui con Leo Turrini, compagno di merende modenesi della Formigine. Voglio dire, a nome di Nosotti, anche a Pardo, facciamo il Bar Tour e Nosotti, mi sostituito da Pardo, arriva Pardo. Leopardo ci fa la recensione culturale, ci fa l'angolo intellettuale. Tutti convocati. Un sacco di gente, tira giù il finestrino, vi sta ascoltando, sente Pardo, sente Marino, sente Genta, e tutti mi chiedono: ma perché Salvini invece di svuotare Forza Italia non si compra il Milan? Cioè, perché... sono tifosi del Milan che dicono: se Salvini compra il Milan, no, si concentra lì, è un beneficio per tutti. Perché non ha gradito il comportamento di Higuain, ha detto mi ha fatto vergognare Higuain. Ma che l'ha fatto vergognare? L'ha fatto vergognare, ha detto lui. Perché è un extracomunitario, ma facciamo la finita. Higuain è un extracomunitario. Marino, per favore, aiutami a parlare di Verstappen, no, perché Turrini dato che non ha vinto Raikkonen, fa finta che la corsa non ci sia stata, Marino. No, c'è stata, ahimè, c'è stata. Mozione d'ordine, come si diceva nel 68, ti ricordi Turrini 68? Io poi una domanda seria. Io mi ricordo, allora, non... però posso dirlo a nome di Marino, io e Marino eravamo alle riunioni dei carbonari del 1848, ma che 68? Vabbè, tanto noi non... abbiamo fatto le veramente... 5 giornate di Milano. Allora, non ci fai parlare. In cacciara, come dite voi a Milano, dai. Posso fare una domanda seria? Con un po' di fatica che Verstappen comincia a starmi simpatico. Mi guardo allo specchio e poi mi sputo davanti. Però ha portato una sorta di, come lo vogliamo chiamare, ruvida umanizzazione in uno sport che stava diventando un pochino una PlayStation o addirittura come si chiamava la nostra pista che... La Polistil, Marino, io e te abbiamo inventato noi la Polistil. Allora, già immagino il prossimo anno quando ci saranno due ragazzini che secondo me lo scalpiteranno molto e ci divertiremo molto, speriamo che non si facciano male, però due ragazzini di 21 anni che si chiamano Verstappen e Leclerc, perché credo proprio che abbiano tanta voglia di mandare in pensione quelli che quest'anno hanno vinto con merito ma aiutati anche dalla chiamiamola fortuna. E quell'altro che, insomma, vogliamo parlare di Vettel, che da Spa in poi non ha combinato più nulla, cos'è successo? Cioè, questo rivaluta Raikkonen, il top driver della Ferrari è diventato Raikkonen, e vedo già l'erezione di Turrini, l'ultimo. Io penso moltissimo in coda sulla Piero Cormano e il mio maestro Marino Bartoletti, che certamente rammenterà quando io e lui ci andava a cena con Tazio Nuvolari, Achille Varzi, eccetera. Noi avevamo già capito che KR7 è vero, che poi è Kimi Raikkonen, disponeva di un talento superiore. Se voi prendete i dati di questa stagione, mi dispiace dirlo, perché Vettel è comunque il capitano della Ferrari, Kimi è andato più forte, perché senza tre episodi, gare non disputate, non per colpa sua, sarebbe addirittura davanti al tedesco. Però parlando seriamente, possiamo metterla così: noi ci troviamo di fronte a una Mercedes Notav, e voi vi chiederete cosa c'entra la Mercedes Notav. Telefonate a Toninelli, è molto semplice: la Mercedes aveva questi fori sui cerchioni delle ruote, no? Avete presente? Che si dice l'abbiano aiutata nel momento decisivo, e poi è arrivato Toninelli, hanno chiuso questi fori, è una Mercedes Notav, ha vinto il mondiale lo stesso, sia con Hamilton che in titolo costruttori. Allora facciamo qualche cosa, facciamo questa benedetta tavola, sfondiamo questi fori e puntiamo su Carletto Leclerc. Io volevo fare una domanda seria, ecco, ti prego. No, c'è ancora prego, Pardo, sì, Pardo, sono questo qua, una domanda Pardo, per tutte e due. Ma Hamilton, non te lo darò il premio Campiello Pardo perché parti. Stai buono. Hamilton, sì, nella storia della Formula 1, a che livello è? Molto alto. Che allora, vuol dire? Io adesso ti rispondo, ti fai parlare, parli solo tu. Hai per il premio strega. Senza vergogna. No, dai. Allora, seriamente, c'è sempre la solita premessa, epoche diverse, bla bla, perfetto. Però Hamilton è un talento naturale dall'inizio. Io ero in Australia quando arrivò 2007, debuttante semisconosciuto accanto ad Alonso, campione del mondo in McLaren. Questo, come dicono in Guerre Stellari, Star Wars, per citare Luigino Di Maio, The Chosen One, il predestinato, è uno che ne ha di più. Quindi io lo metto tra i grandissimi, i 5 titoli mondiali non sono un caso, può stare benissimo in compagnia del mio amico Ayrton, del mio amico Schumi, con Fangio, se lo merita. Dopodiché Marino, perché con Senna no? Ma perché Senna aveva un talento naturale e umano, secondo me, che Hamilton, Hamilton è questione di gusti. Ha fatto vincere anche macchine che forse non avrebbero vinto. Ma io parlo del pilota, però, Marino, non dell'aspetto umano. Ayrton è un aggiunto personale, chiaro. Fangio non l'ho visto, ma penso che avesse qualcosina di più. Come non l'hai visto? Tempi, naturalmente. Io su, Fangio, Castellotti, Delia Scari, prima di innamorare. Una volta, Mode, adesso mi dice che non hai conosciuto. Accompagnavamo Fangio, Castellotti da Delia Scari tutte le settimane, lo sai benissimo, dai, su. Ma quando io e te incontriamo Aldo Buzzanca, ti ricordi? Che ci chiesero un parere sulla sceneggiatura del Merlo Maschio. E tu, caro Marino, dicevi, sì, però questa scena è un po' troppo osè. Io dicevo, ti ricordi come si chiamava l'interprete, il personaggio che interpretava Buzzanca nel Merlo Maschio? Antonio Vivaldi, ma ti ricordi? Dalla tua voce. Antonio Vivaldi si chiamava. Oggi è l'anniversario della morte di Gioachino Rossini, non dimentichiamolo, Il barbiere di Siviglia. Però anche la Gandalata, spero che non ci offendono in via Solferino. Ragazzi, devo chiudere il bar tour. Devo chiudere. Vivaldi e l'uva pasta, preferisco l'insalata che mi dà più calorie. Voglio sentire Barbiato. Dato che è stato citato, te la faccio sentire tra una settimana, perché adesso abbiamo già sforato. Ciao ragazzi. Ciao, Gianmarco Ferronato, Giorgio Luca, ovviamente, autore di tutti i convocati, Alessandro Schirano. A domani alle 2. Ciao, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti.